Sezione quarta di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitare il sito LibriVox.org. Sorgono e in agili file dilungano gli immani ed ardui steli marmorei. E nella tenebra sacra somigliano di giganti un esercito che guerra mediti con l'invisibile. Le arcate salgono chete, si slanciano quindi a vol rapide, poi si rabbracciano prone per l'alto e pendule. Nella discordia così degli uomini, di fra i barbarici tumulti, salgono a Dio gli aneliti di solinghe anime che in lui si ricongiungono. Io non dio chieccovi, steli marmorei, arcate aeree, tremo, ma vigile al suon d'un cognito passo che piccolo i solenni echi suscita, è Lidia e volgesi, lente nel volgersi, le chiome lucide mi si disegnano, e amore il pallido viso fuggevoli fra il nero velo arridono, anche fra il dubbio giorno d'un gotico tempio avvolgendosi, l'alighier trepido cercò l'immagine di Dio nel gemmeo pallore d'una femmina. Sottesso il candido vel della Vergine, la fronte limpida fulgea nell'estasi, mentre fra nugoli d'incenso fervide le litanie salian co murmuri molli, co fremiti lieti salian d'un vol di tortori. E poi con l'ululo di turbe misere che al ciel le braccia tendono, mandava l'organo pe cupi spazi sospiri e strepiti dall'arche candide, pari a che l'anime dei consanguinei sotterra rispondessero, ma dalle mitiche vette di fiesole tra le piestorie pe vetri roseo guardava polline sull'altar massimo impallidiano i cerei e Dante a scendere fra inni d'angeli la tosca vergine trasfigurantesi vedea, sentiasi sotto i piè ruggere rossi d'inferno i baratri. Non io le angeliche glorie nei demoni, io veggo un fievole paglior che trepida per l'umidaere. Freddo crepuscolo, fascia di tedio l'anima, addio semitico nume, continua nei tuoi misteri la morte domina, o inaccessibile re degli spiriti, tuoi templi il sole escludono. Cruciato martire, tu cruci gli uomini, tu di tristizia l'aer contamini. Mai cieli splendono, mai campi ridono, ma d'amore lampeggiano gli occhi di Lidia. Vederti, o Lidia, vorrei vorrei fra un candido coro di vergini, danzando cingere l'ara d'Apolline su colli arosei vesperi, raggiante in pario marmo fra i lauri, versare anemoni dalle man gioia dagli occhi fulgidi, dal labbro armonico un inno di Bacchilide. Fine della sezione quarta, registrata da Liber il 24 settembre 2020.